qui. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, io e te. Tutta la gente si gira, si gira. Sul pianeta te lo fai. Vai, vai, vai, vai, vai. Abbiamo chiuso fuori con il suo casino.